Si va? Via! Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, di ritorno dalle vacanze estive, trasmettendo sempre dalle Gallerie San Lorenzo in via Isidoro del Lungo e ringraziando Stefano Neri che ci presta questo splendido spazio in centro a Montevarchi. In regia per noi stasera Pasquale Festa Campanile e accanto a me Fumino. Buonasera a tutti, bentornati dalle ferie di agosto e dalle ferie estive alla fine sostanzialmente. Oggi tra l'altro ho visto Stefano Neri che sfoggiava una abbronzatura degna della migliore soubrette che si fa alle vacanze alle Maldive. Ma insomma, detto questo, come sempre riparte il volo dell'Aquila, riparte il volo alla ricerca della montevarchinità, ripercorrendo i 115 anni di storia della compagine rosso-blu cittadina. L'ospite di stasera, come sempre la formula non cambia, è stato un calciatore molto importante per l'Aquila e è con noi un montevarchino d'adozione, perché è diventato montevarchino dopo aver giocato a Montevarchi e lo sentirete dal suo accento che non è proprio di qua. Viene direttamente dalla capitale, Giorgio Garozzo. Buonasera. Buonasera a tutti. Beh, buonasera Giorgio. Allora, dicevamo, sei nato a Roma, prima in sede d'incontro, prima della puntata, appunto ci raccontavi questi aneddoti e quindi ti faccio una domanda. Com'è che si inizia a giocare a calcio a Roma? Com'è che si inizia a giocare a calcio nella capitale e poi magari diventa anche una professione? Beh, sai, adesso le cose sono un po' cambiate rispetto a quando c'ero io. Prima, diciamo, era la strada, la nostra palestra di vita. Altri tempi, bastava avere un pallone, tanti ragazzi magari a giocare ore e ore sulla strada, era quello lì la nostra, diciamo, il nostro allenamento quotidiano. Poi mi scoprì un famoso direttore sportivo che anche oggi fa il direttore sportivo in Serie B a Venezia, Giorgio Pernetti, e da lì mi cominciai tutta quanta la trafila con le giovanili, fino a che poi andai in una società di Serie D, sempre professionista, al Velletri. E dopo incontrando con il Velletri, incontrando anche questo girone qui in Toscana, incontrai, mi ricordo, l'allenatore Caroni, si ricordava di me e poi insomma alla fine venni qui a Montevarchi e come vedete ci sono rimasto. Esatto, perché anche te, come altri calciatori che sono passati da Montevarchi, in un modo o in un altro ci sei rimasto principalmente per una questione affettiva e ti sei stanziato qui. Certo, come disse il vecchio Monciani, grandissima persona del Montevarchi che fu, sì, sono stato qui, sono prima fidanzato e poi sposato e vivo tuttora con mia moglie Franca, ho due figli, quindi ormai sono integrato in questa Montevarchi. Bene, Giorgio, nella tua esperienza di calciatore a Montevarchi, che è durata solo 2 anni per svariati motivi, come ci dicevi appunto prima, uno dei quali l'arrivo degli aretini alla presidenza della società che ristrutturarono, diciamo così, il parco giocatori portandone dei propri e tu alla fine decidesti di lasciare la squadra per andare in Serie D. Ma andare in Serie D perché con il Montevarchi in quei 2 anni comunque sei stato protagonista di 2 campionati di tutto rispetto. Il primo culminato con la vittoria e la vittoria della Coppa Italia in quella mitica finale di Chioggia contro il Suzzara e poi l'anno successivo in Serie C2. In questi tuoi 2 anni hai incrociato gli scarpini, come si potrebbe dire, con un compagno di squadra che ci preme ricordare e a cui vorremmo dedicare alla sua memoria la puntata di stasera, Silvio Dati. Giorgio, ci vuoi lasciare un ricordo del Silvio compagno di squadra e del Silvio calciatore? Guarda, mentre hai fatto questo nome mi vengono ancora i brividi. Purtroppo è successo che è venuto a mancare Silvio e dal punto di vista del calciatore è stato un compagno di squadra, era un centrocampista di interdizione. Sono anche in difficoltà ora perché veramente, guarda, poi tra l'altro vive a Levanella, anche io abito a Levanella, quindi spesso ci incontravamo e spesso parlavamo, anche perché qui siamo rimasti in pochi a Montevarchi, io, lui e Brilli, diciamo. Comunque è un grandissimo giocatore, molto duttile, un giocatore che aiutava sempre i compagni, insomma un bravissimo ragazzo, ecco, come persona uguale, perché come ripeto spesso ci incontravamo, ci mettevamo a parlare, lo ricordo ancora quando a Levanella tutte le sere giocava a carte, e l'unica cosa che posso dire è che è un grandissimo giocatore e una grandissima persona. Bene Giorgio, quindi ci hai raccontato prima di essere passato dalla strada, da giocare nella strada come usava fare negli anni 70 nei paesi tanto quanto nelle città, però nelle città probabilmente c'è più possibilità di essere visti, presi d'occhio da qualcuno, e quindi a te questo è capitato e sei stato portato a giocare in una squadra dilettante che stava nascendo in quel momento. Ci vuoi raccontare questa esperienza? La squadra si chiamava Jacobini Calcio, che prendeva il nome dal suo presidente, che era stato un giocatore della Roma che aveva vinto lo scudetto, il primo scudetto della Roma, che era vivo quando c'ero io. E questa era una squadra fatta di tutta gente quasi del quartiere, va bene? Fatta così, però alla fine risultò una squadra quasi imbattibile, perché a livello giovanile abbiamo vinto praticamente tutti i campionati. In tre anni diciamo che abbiamo giocato insieme, in tre anni abbiamo perso solamente due volte. Una cosa che mi fa piacere dirlo è che tuttora ancora ogni tanto ci incontriamo, una volta all'anno, una volta ogni due anni, a Roma, e ci incontriamo così per ricordare i bei tempi. Una squadra, detto, è rimasta un pochettino nel quartiere nostro, la squadra degli Invincibili. Tutti quanti ancora ci ricordano perché eravamo una squadra veramente, veramente forte. Difatti molti giocatori hanno finito, diciamo, sono stati presi dalla Juventus, dal Napoli, dal Milan, dall'Inter, dalla Roma stessa, e questa dimostrazione appunto che era una squadra veramente, veramente forte. E quindi Giorgio, a partire da questa prima esperienza, te ancora minorenne, hai detto 16 anni, hai iniziato a giocare nelle giovanili del Velletri e poi da lì è iniziata la tua carriera professionistica. Sì, perché difatti era, allora c'era ancora la Serie D, che era sempre professionistica, c'era A, B, professionisti, e C e D, sempre professionisti. E ho cominciato a dire gli allievi, sempre professionisti, però quell'anno là, con l'allenatore Mari, riuscì a esordire anche in prima squadra, 16 anni e mezzo. E l'anno dopo entrai in pianta stabile in prima squadra. E a partire da questo momento poi come è andato avanti il cammino che ti ha portato poi a Montevarchi? Ho fatto 4 anni di Serie D lì a Velletri, dopodiché mi richiese, diciamo, a Montevarchi, perché tramite l'allenatore che mi aveva visto giocare, che era Garoni, si ricordava di me. Poi noi avevamo un giocatore in prestito qui a Montevarchi, un giocatore nostro, e quindi si è fatto una specie di cambio. Infatti io venni qui non proprio definitivo, venni qui, diciamo, in prestito, in prova, diciamo, e invece poi riuscii subito a entrare, diciamo, a firmare per il Montevarchi e a partecipare a questa entusiasmante cavalcata che ci portò a vincere sia campionato che coppa. E devo dire che all'inizio ho trovato delle difficoltà, perché io entrai alla sesta o settima giornata con Grosseto, se non mi ricordo male, perché avevo accusato la preparazione di Carletto, va bene, di Caroni, e invece poi come riuscii a entrare con Grosseto feci gol e da lì non uscii più, e addirittura poi alla fine feci 16 gol e capocannoniere anche della Serie D. E visto che noi comunque parliamo dell'Aquila Calcio come la società cittadina e attraverso quella indaghiamo quella che noi definiamo, amiamo definire la montevarchinità, le tue impressioni in quei primi due anni a Montevarchi, che sono stati comunque anni in cui la squadra è andata ovviamente bene, avete fatto delle vittorie che sono rimaste nella storia poi della società calcistica, com'è che te hai visto la città partecipare ai festeggiamenti eventuali o comunque alla vita della squadra che andava in risultati positivi? Ma è stato emozionante perché qui si respirava veramente voglia della città di fare calcio, cioè voglia di ritornare a certi livelli. Io ho ancora delle foto a casa e vedere lo stadio Rilivere pieno, ma veramente pieno, anche la tribuna di là, tutte e due le tribune, perché mi sembra una curva ancora irreagibile, però le tribune tutte e due sempre stracolme piene.

Maurizio Sarri, che era un giocatore della Castelnovese, chi l'avrebbe mai detto a quei tempi là? Anche perché quel giocatore era abbastanza scarsotto, Come allenatore invece ha dimostrato un pochettino di saperci fare. E niente, poi diciamo sono andato a lavorare là e questo chiaramente mi ha un pochettino agevolato quando ho cominciato a fare l'allenatore. Sono uscito fuori dal corso, mi trovo subito la squadra in promozione. Fortunatamente ho fatto bene, ho fatto quasi, diciamo, non so se è un record, comunque 9 anni alla Castelnovese e siamo andati dalla promozione all'eccellenza. E i primi tempi continuavo a giocare perché ancora, diciamo, mi sentivo in forza di poterlo fare. Quando c'era necessità, quando c'era estremamente bisogno, e mi sono messo, come dicevano tutti quanti, cioè, mister si mette. E qualche volta ho fatto anche dei gol, anche perché il vizio del gol, sai, ho perso nemmeno ora a 57 anni, per cui ancora ogni tanto nelle manella qualche gol lo faccio. Per cui ogni tanto è capitato anche di fare dei gol anche a un'età un pochettino avanzata. E ti voglio fare una domanda su Maurizio Sarri, perché evidentemente se ci hai giocato, giusto? Giocato, siamo sempre in contatto. No, ora, noi avevamo intervistato precedentemente, qualche puntata fa, Piero Bencini, che comunque è stato il suo secondo quando Sarri era alla San Giovannese, e ci raccontava che aveva tutta una serie di rituali scaramantici nel prepartita che probabilmente ancora mantiene a Napoli, quantomeno ci spiegava il fatto di non toccare il campo se non passando dal perimetro prima della partita, oppure di non toccare il pallone quando gli arriva verso durante 90 minuti. Quando era giocatore era scaramantico pure in questa maniera? No, era molto meno scaramantico. Invece da allenatore lo so perché anch'io sono un po' scaramantico. Non ci sono solo queste, ne ha fatte tante le scaramanzie, te lo posso garantire io. E addirittura, ti dico un altro aneddoto, il primo anno che io ho cominciato ad allenare, lui allenava all'Antella. Era già 3 o 4 anni che lui allenava, quindi ci siamo anche incontrati sulla panchina, diciamo, contro. E mi ricordo allora che fumava come un turco. Infatti io dalla panchina dicevo sempre, perché ero controvento, ma io stavo a smettere di fumare, cioè, no? Perché se smette di fumare come fa come? E insomma è stata una serie, insomma, così di, anche perché sei amici, abbastanza divertente da una panchina all'altra. E poi lui quell'anno tra l'altro vinse il campionato, mi sembra poi da lì cominciò tutta la sua scalata fino a Napoli dove è ora, insomma. Bene, quindi Giorgio, la tua carriera continua da allenatore giocatore, poi solo da allenatore. È una carriera, anche quella da allenatore, che è piena di riconoscimenti, seppur nel calcio dilettantistico, però leggevo in un almanacco sportivo delle 9 stagioni a Castelnuovo, le 5 stagioni ad Ambra e le 5 stagioni a Bucine. Quindi un allenatore che quando prende una panchina non la molla, o quantomeno si fa ben volere. Tra l'altro sei stato anche premiato dai giocatori di una tua squadra con un riconoscimento molto particolare e originale. Ce lo vuoi raccontare? Sì, diciamo, poi ho smesso, diciamo, di giocare, ho attraverso la carriera di allenatore e, come tu hai giustamente detto, ho fatto 9 anni a Castelnuovo, coronati con la vittoria del campionato della posizione dell'eccellenza, 5 anni a Bucine, dalla seconda categoria della promozione. Poi un anno a Fogliano anche, sono subentrato, e poi 5 anni a Ambra, e anche lì dalla prima alla storica promozione di 2 anni fa, dove appunto lì ho raggiunto le 500 panchine, dove c'è stata appunto una premiazione abbastanza simpatica da parte della società. Comunque mi sento obbligo di ringraziare tutte le società che mi hanno avuto, diciamo, come allenatore. E sì, sono uno che ci sto tanto, evidentemente mi trovo bene io, ma altresì è anche vero che probabilmente si trova bene anche la società, se magari continuano a confermarmi. Ora quest'anno sono andato in Cisa, speriamo di continuare quello che ho fatto in queste altre società. Questa longevità nelle panchine delle società dove sei stato chiamato ad allenare, secondo te aver militato da calciatore in categorie professionistiche o anche semiprofessionistiche, ma comunque molto blasonate, e addirittura aver vinto tante cose molto importanti come quelle che hai vinto a Montevarchi, ti ha aiutato nella tua carriera di allenatore aver incontrato queste vittorie da giocatore, oppure è tutta farina del tuo sacco, o c'è qualcosa che viene preso da quell'esperienza là? Ma vedi, durante una carriera uno cerca di prendere tutte le cose migliori che ti sono capitate. Sicuramente una fortuna che ho avuto è quella di aver avuto la possibilità di vincere da giocatore tanti campionati. 7 campionati e una coppa, e questo magari in certe situazioni si sono un po' ripetute, diciamo, quando tu sei la guida di una squadra magari certe cose tu te le ricordi, c'è una gestione un pochettino diversa di alcune situazioni, e sicuramente su certe cose ti ha aiutato. Poi è chiaro, se parlavo prima di Maurizio Sarri, lui adesso è al top dei top, eppure come giocatore prima categoria è anche abbastanza scarsotto, quindi diciamo è tutto relativo. Chiaramente io ho cercato sempre, avendo sempre fatto il calciatore a un certo, diciamo, professionale, più professionistico e professionale, ho sempre pensato che anche fare allenatore dilettanti per me è comunque, bisogna farlo a livello professionale. Se tu fai una cosa bisogna farla, cercare di farla nel miglior modo possibile, altrimenti è inutile stare lì a perdere tempo, fare allenamenti o fare cose, tanto non serve a niente. E da questo punto di vista sono abbastanza, diciamo, un martello, nel senso che delle volte pretendo anche troppo dai giocatori, però io il calcio lo vedo così e basta, non ho nessun altro modo di vedere il calcio che non in questa maniera, e questo alcune volte mi ha portato sicuramente a dei risultati. E quindi Giorgio, com'è che ti è venuto in mente, o comunque hai deciso di fare l'allenatore e restare nel mondo del calcio, o comunque contemporaneamente continuare a giocare, però prepararti per diventare allenatore? E tecnicamente com'è che funziona il corso da allenatore? Allora, partiamo prima dal discorso come ho deciso, diciamo. E sono cose che uno te le senti dentro e ho provato, ho fatto il corso e poi ho cominciato ad allenare. Fortunatamente è andata bene perché sono 20 anni che ancora alleno, e quindi evidentemente la scelta è stata giusta. E poi anche perché la mia vita è stata sempre puntata su quella cosa lunga che rotola, diciamo, e da quando ho 5 anni che gioco a pallone, per cui quando arrivi a 36 anni, 35 e cominci a capire che devi smettere di giocare, c'è chi ci riesce e chi no. Io ho provato a fare allenatore e fortunatamente fino adesso è andata relativamente bene. Per quanto riguarda il corso, ora sono un pochettino cambiati. Prima il corso durava 3 settimane, erano 5 ore il pomeriggio. Diciamo, abbiamo avuto la fortuna che noi c'erano i professori che facevano il master, cioè quello di Serie A a Coverciano, e devo dire che ci hanno insegnato veramente parecchie cose. Sono, se non mi ricordo male, sono all'incirca 7 materie, in cui c'è la tecnica calcistica, la tattica calcistica, poi c'è la preparazione atletica, poi c'è la psicologia, poi c'è le carte federali, poi c'è il regolamento, poi ce n'è un'altra perché mi sembrava 7. Dopodiché, dopo queste, ci sono tutte lezioni, e poi alla fine, diciamo, durante queste lezioni ogni tanto c'è degli esami. Mi ricordo, noi ci portarono a vedere un Fiorentina Palermo di Coppa, e poi dovevamo fare una relazione dove appunto poi venivano dati dei punteggi, e poi alla fine c'era l'esame finale dove, premetto, c'era anche un esame di tecnica dove ti facevano palleggiare, ti facevano fare delle esercitazioni, e poi alla fine c'era, diciamo, l'esame finale con il docente, mi ricordo era Moschino, dove ti chiedeva diverse cose che, insomma, avevano parlato durante queste 3 settimane, e devo dire è molto impegnativo, molto. Ma si può bocciare a un esame di genere oppure passano più o meno tutti? No, e diciamo, corsi chiusi a 40. I 40 che entrano dentro sono tutti e 40 promossi, a meno che qualcuno non salta, non so se 4 o 5 ore. Cioè, l'unica cosa è la presenza. Però c'è una classifica. Cioè, in fondo ai 40 c'è il primo, il secondo, il terzo, fino al 40esimo. Non so se quella conta o non conta, però sicuramente, siccome poi queste sono classifiche e poi escono nei comunicati, probabilmente chi arriva primo, secondo, terzo, quarto, quinto, probabilmente ha più visibilità rispetto a chi arriva 40esimo. Per cui, insomma, conviene farlo e farlo bene. Ma la chiusura numerica 40 persone è tipo quindi figlia di una preselezione? Allora, ma penso anche ora, c'è un curriculum dove te hai dei punteggi per ogni anno che tu hai giocato. Se hai giocato in Serie A, c'hai tot, se hai giocato in Serie B, c'hai tot, fino alla terza categoria. Va bene, poi c'è dei punteggi se tu hai il diploma, se tu sei laureato, se tu sei... C'è tutta una serie, una graduatoria dove, e diciamo tutta la Toscana, però entrano solo 40. Quindi i 40 che hanno questo punteggio, questa graduatoria, entrano nel corso. però allora era diverso, adesso fanno più corsi e adesso fanno addirittura 5 settimane, però intervallate, perché adesso viene messo insieme anche il settore giovanile, invece allora era solo prima squadra. Però il che voglio dire io è che comunque da un certo punto di vista mi ha detto c'è anche una parte tecnica, quindi tendenzialmente è difficile trovare un allenatore probabilmente che non ha mai giocato a pallone. Invece c'era, cioè che non abbia mai giocato a pallone no, però comunque c'era gente diciamo scarsa tecnicamente, perché quando palleggiavano si vedevano. Io mi ricordo, posso fare un aneddoto, c'era Romeo Benetti che curava la parte diciamo tecnica, e siccome lui aveva giocato nella Roma, che io sono chiaramente un grandissimo tifosissimo della Roma e io me lo ricordavo, sicché quando mi chiamo a palleggiare, io destro sinistra, alla fine l'ho fatta, Romeo, che tu sta qui fino a domani mattina. Lui si mise a ridere, mi ha detto, ma te sei da Roma? Sì. Sicché dico, ah, ce la smetti, come l'hai visto. E riuscì a prendere uno dei punteggi diciamo più alti, per la tecnica individuale. Probabilmente non ve le insegnano nel corso a Coverciano, ma ci racconti la tua scaramanzia principale da allenatore. Qual è il tuo rito per portare bene alla squadra? Oddio, dovrebbero parlare i giocatori, perché ce ne sono talmente tanti che forse tutti non me li ricordo. Sicuramente uno un po' particolare è che io metto la musica dentro lo spogliatoio e tutta una serie di canzoni scelte chiaramente da me, di vario genere, però ce n'è un paio che sono di Renato Zero, che chiaramente sono un ex Sorcino, va bene? Tra l'altro vi posso dire che dove abitavo io e la sua mamma abitava a 500 metri da casa mia, e noi spesso dovevamo passare sotto casa, lui con il macchinone, noi la cercavamo tutti quanti, a chiedere dove, per spinta. Quindi con Renato ho avuto un rapporto fino dai 15 anni, 14 anni, quando già cominciava a essere famoso. E poi tra l'altro ho saputo anche poi che insomma la carriera si è sviluppata qui nel Valdarno, lui. L'ho visto anche qui due volte a San Giovanni, a Bucci, so che qui al Mulino mi sembra c'era la discoteca che lui ha cominciato, quindi mi sono ritrovato con questa cosa qui e dicevo appunto metto un paio di canzoni di Renato Zero, di cui l'ultima poi io la canto e ultimamente Ambra la cantava anche Gregucci, perché anche lui è di Roma, anche lui è innamorato di Renato Zero. E dopo questa canzone entravamo tutti quanti in campo, cioè aspettavamo tutti quanti che finiva una certa fase con la canzone, dopodiché si poteva andare in campo e vincere le partite. E poi se si rientrava in spogliatoio si era vinto, come è successo a Ambra, se ne vinte tante, c'era la canzone dei Village People, IMCA, e lì tutti quanti a cantare, a fare selfie, a fare cose. Questa è una delle ultime che ho fatto a Ambra, ma ce ne sono tantissime, dalla mattina quando mi alzo, che metto giù il piede sinistro invece che il destro, dal letto e tutta un'altra serie di cose che ci vorrebbe forse un'altra trasmissione per raccontare tutte quante. Beh, allora, una cosa veloce però, dicela, qual è la canzone di Renato Zero? I giardini che nessuno sa. Ok, perfetto, per chi magari non conoscesse. E per chi non conosce Giorgio Garozzo personalmente, perché magari non abita nella nostra zona, ma ci ascolta. Giorgio, raccontaci in quale ruolo giocavi e qual è stata la partita che più ti ricordi, che più ti ha emozionato vincere o giocare con la maglia rossoblù. Allora, ruolo chiaramente la punta, e ci sono arrivato per caso, perché penso io ho cominciato con la famosa squadra che ti dicevo prima, da bambino facevo il difensore di sinistra, diciamo quello che adesso è il fortificante, solo che siccome andavo sempre all'attacco, allora hanno cominciato a spostare, poi ho cominciato a fare il mediano, poi il centrocampista diciamo di regia, e poi a 15 anni negli allievi si fece male il centravanti, siccome io facevo gol anche giocando da centrocampista, mi misero a fare il centravanti e da allora diciamo ho finito la mia carriera da centravanti. I due anni a Montemarchi che ricordo chiaramente l'ultima partita di campionato, quando eravamo a pari punti col Poggi Bonzi, loro giocavano alla Spezia con Migliorina e noi in casa con Cogliopelli. Un aneddoto è che comunque in Migliorina al Migliorina era stata fatta una visita da dirigente del Montemarchi per farli impegnare un po' di più, diciamo, così come il Poggi Bonzi aveva fatto visitina a Santa Croce sull'Arno per stimolare un po' di più i ragazzi della Cogliopelli. ma il fatto che vincevamo noi 1-0 e loro pareggiavano 0-0 e poi a 13 minuti alla fine fecero gol loro. Anzi no, a un quarto d'ora alla fine fecero gol con io perdi 1-1, tiro da fuori. Quindi gelò i brilli peri perché eravamo tutti e due a pari punti, sarebbe stato spareggio. Ho fatto gol io il primo tempo su calcio di rigore, mi sembra sì. E io poi ci fu una mezza mischia, riuscì a fare gol al 77esimo. E fu il gol, diciamo, della vittoria del campionato, perché fortunatamente Poggi Bonzi colpì la traversa al 90esimo alla Spezia e noi vincemmo il campionato. Ma la cosa bella è che non potevamo manco festeggiare più di tanto, perché il mercoledì c'era la semifinale di Coppa Italia con il Battipaglia, che abbiamo perso 2-0 al Battipaglia. Ambiente di tremendo e dire poco. Voi ora siete ancora troppo giovani, ma qui vennero da Battipaglia la mattina alle 10, erano già tutti quanti qui dentro lo stadio, entrarono senza pagare. Ci furono scontri anche con i carabinieri, mi ricordo un carabiniere di Montevarchi, non mi ricordo il nome, finì quasi anche all'ospedale. Insomma fu, perché per loro, lo sai, giù, Battipaglia, al sud, cioè queste cose qui, semifinali di Coppa, era una partita, poi abbiamo vinto 2-0, per cui si sentivano già in finale. Purtroppo per loro trovai la giornata che tutti quanti sognano e feci 4 gol dopo, sembra 35 minuti, una cosa del genere. E poi la partita finì 6-2, però quella ci permette, diciamo, sono quelle giornate dove non ti puoi scordare, cioè ogni volta che tiravo un porto era gol. Sono quelle giornate clamorose, si vinse 6-2, poi si andò in finale e poi si vinse anche la finale. Dunque una stagione d'oro culminata con i tuoi sigilli personali da attaccante, quindi era il tuo, diciamo, mestiere, i 2 gol nell'ultima partita di campionato contro il Cuoiopelli e addirittura 4 gol nella semifinale decisiva persa 2-0 all'andata contro il Battipaglia. Ma il gol più bello, quelli probabilmente sono stati i più emozionanti, ma il gol più bello che tu ti ricordi di aver segnato con la maglia dell'Aquila, fa parte di uno di questi o ce n'è un altro ancora? Ma forse il gol più bello l'ho fatto in Coppa Italia e con la Ternana. Quello è quello col Grosseto, anche col Grosseto. Colpi di testa sempre, anche nonostante l'altezza. 2 colpi di testa praticamente da fuori aria. Da fuori aria sul cross, mi ricordo con la Ternana, un cross di Zotto in una posizione laterale. E praticamente dalla lunetta dell'aria, diciamo fuori aria, vabbè, dal semicerchio, incocciai questa palla di testa talmente forte e andò sotto l'incrocio dei pali. Con la Ternana che era la squadra di serie di C1. E in casa col Grosseto, uguale, solita dinamica, un cross di Napolitano, se non mi ricordo male, e colpì la palla sempre da fuori aria, praticamente di testa, ma l'incocciai talmente forte che la palla finì sotto l'incrocio dei pali. Questi, diciamo, nel Montevarchi sono stati forse i gol più belli, però ti posso dire che i gol sono sempre belli, sempre, sempre, anche quello fatto da un centimetro dalla riga. Chiaramente questi me li ricordo perché, non essendo alto, gol di testa chiaramente fa sempre un certo effetto. Ma dopo una botta così forte, da così grande distanza, la testa un po' rintrona, fa male, hai un momento di sfasamento o no? Perché io non ho mai giocato, non lo so. No, anzi, più la colpisci forte e precisa, meno fa male. Quando tu la prendi male in testa, che senti un po' di dolore, ma quando la colpisci in piena fronte, più la colpisci, diciamo, forte e meno senti dolore. Poi è un dolore, diciamo, relativo. Chiaramente fa più male quando prendi la pallonata in faccia, senza che tu te ne renda conto, capito? Però quando uno colpo di testa, se tu lo fai, diciamo, con la convenzione, con la voglia, e tu la colpisci al centro della fronte, non senti niente. Comunque, anche a tutela del fatto che appunto hai passato una vita intera nei campi di calcio, è importante ricordare anche che oggi sei allenatore, però continui a giocare seppur in quello che è il calcio amatoriale, perché comunque negli ultimi anni hai giocato sia nei campionati ARCI e nei campionati ANSPI. Raccontaci anche questa fase di carriera, diciamo, anche se carriera effettiva non è, comunque com'è che la passione prosegue tanto da continuare anche a livello amatoriale contemporaneamente facendo anche l'allenatore? Beh, innanzitutto bisogna litigare con la moglie, scherzi a parte. Ho cominciato perché mano un po' con il volto, poi sai, una cosa che talmente ti piace tanto, un po' fisicamente mi sentivo comunque in grado di poter ancora, anche se negli amatori, di dare qualcosa, e ci ho giocato quasi una decina d'anni. Tra l'altro ci ha giocato anche Silvio nelle Vanella, ha cominciato anche lui, ha fatto un po' di anni anche lui. Poi insomma ho cominciato anch'io, ora credo che l'altro anno sia stato veramente l'ultimo anno, 57 anni, ora veramente credo che sia stato proprio l'ultimo, però devo dire che comunque è abbastanza divertente. Divertente viene fatto anche a livello professionale, anche se siamo gli amatori, però insomma la gente si allena bene, ci credono, e poi comunque è sempre sport, per cui fa sempre bene. L'importante è detto che la gente quando fa una cosa la fa al 100%, nel miglior modo possibile. Se uno lo fa in questa maniera qui, anche se fa gli amatori, secondo me è fatto bene anche quello lì. Detto questo, ringraziamo enormemente Giorgio Carozzo per la presenza nei nostri studi e per aver contribuito alla ricerca della montevarchinità, volando anche lui nei ricordi dell'Aquila che è stata per lui e dell'Aquila che è oggi. Ringrazio il nostro regista Pasquale Festa Campanile, ringrazio Julian Carax, ringrazio voi ascoltatori e Radio Big World. Alla prossima puntata. Vi ringrazio per avermi invitato, mi ha fatto veramente un enorme piacere ripercorrere un pochettino la mia vita calcistica, terminata poi chiaramente qui a Montevarchi. E quindi un saluto a tutti quanti gli sportivi e, come diceva il vecchio presidente, sempre alle ale, grosso ble. Le volte si dice ho capito. Pasquale Festa, no, ragazzi, non voglio fare fai difficili per fare tutta la facciamo serie, no? Dai, Pasquale Festa Campanile. Dai, fai. Pensa alla Pasqua, alla festa e campanile. Voglio. Vabbè, salutiamo subito il Neri, ringraziamo il Neri per la stanza e ricordati è settembre, cioè, quindi siamo tornati alle ferie, siamo abbronzati e rilassati. Così io ricordo, a parte mia moglie ho portato qui in Roma, si è proprio rimorchiata qui, che poi manco è rimorchiata un altro di Roma. E Roma mi faceva questo qui. Non ci conosce, sono due giocatori, mia moglie, e che me ne frega, a me cascio per frega. Poi da lì è nata tutta quanta la storia. Le panchine d'oro, le panchine d'oro dell'anno, le canne di canale. Panchine d'oro, panchine. 500 panchine. Se il corso allenatore l'ha fatto tipo dopo, immediatamente ha smesso di giocare, cioè prima di Castelnuovo. Giocavo ancora in eccellenza a Lepre. L'ultimo anno ormai ho capito che comunque avevo 35 anni. Dico, tanto come il corso allenatore. Poi, sì, vai. Però insomma alla fine, se sono 20 anni che alleno, così come Sari che ha lasciato la banca per fare, per ridollare un po' un rischio, lasciare banca per provare che alleno, e poi invece visto. Come si chiamava lui? Pasquale Festa Campanile. Ringrazio il nostro regista. Ringrazio Julian Carax, dillo te.